Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo e di Valerio Rocchetti alla regia, di Riccardo Silvi in redazione. Benvenuti, bentornati all'ascolto e benvenuto alla nostra guida di oggi, Roberto Olla. Roberto, diciamo, è un giornalista Rai, in realtà è poco conosciuto, non è di quelli, diciamo, di cui abbiamo più o meno stampato la memoria il volto, eppure è certamente uno di quei giornalisti che stanno guidando questo mutamento culturale in cui viviamo, perché Roberto Olla è specializzato, fa tante cose, ha scritto libri, ha vinto il premio Fragliano, il premio internazionale di letteratura in Molinello, il premio Saint Vincent, il premio Ilaria Alpi, è stato anche presidente dell'organismo dell'EBU, dell'Eurovisione, che collega gli archivi radiotelevisivi europei, perché degli archivi Roberto Olla è un grande specialista, per cui se avete, non so, pensato a Combat Film, Chi l'ha visto, Telefono giallo o altre cose dove ci sono immagini d'epoca inedite, rare, cercate, scovate negli archivi polacchi, russi e di chissà quale altro, diciamo così, piccolo deposito di immagini, beh, è probabile che il 50-60% di possibilità è che Roberto Olla le abbia scoperte. In qualche modo è così. In qualche modo è così. Quindi io lo reputo una guida del nostro mutamento culturale, perché se ci riflettete, una delle grandi cose che stanno avvenendo sotto i nostri occhi è che all'improvviso la nostra memoria può essere riempita di immagini reali. Cioè, immaginatevi, noi possiamo, e quelli del futuro ancora di più, per esempio, parlare di Giovanni Paolo II ed avere l'immagine reale nel luogo, nel momento dove, che so, ha compiuto quel gesto, ha fatto quel discorso, ne hanno non solo il ricordo, ma anche l'intonazione della voce, la cadenza e gli eventuali errori, cosa che invece anche qui la nostra generazione, Roberto, erano abituati a vedere tramite i santini, le icone, le foto posate. Sì, questo sta cambiando il percorso stesso della nostra memoria, perché diventa incancellabile. Difatti dovremmo, come dire, prendere in seria considerazione l'ipotesi di creare nelle scuole un'educazione alla memoria, perché non abbiamo più le sintesi di prima. Prima c'erano, non so, le guerre napoleoniche, e in qualche modo c'erano degli artisti, degli scrittori che ce ne davano una sintesi una volta che i testimoni diretti erano morti. E adesso che immagine avremmo noi della Rivoluzione francese se avessimo i filmati? Un bagno di sangue mai visto nella storia dell'umanità, la ghigliottina che andava in piazza ogni giorno e la gente che festeggiava. Pensate se potessimo vedere quei filmati ogni giorno. Stiamo ragionando ovviamente per assurdo, non esisteva né il cinema né la fotografia. Però noi abbiamo una visione tutto sommato romantica della Rivoluzione francese, che per carità ci ha dato le basi della nostra democrazia, intendiamo, cioè libertà, eguaglianza, fraternità. Poi potremmo anche parlare di questa fraternità che è diventato un oggetto un po' misterioso nel nostro paese. Ma ora, restando sulla memoria, il fatto di trovarsi di fronte all'immagine, sempre più nel dettaglio, di ogni evento storico e non storico, anche del quotidiano, cambia veramente i percorsi. E io credo che la scuola debba prendere in seria considerazione un'educazione alla memoria, perché noi non possiamo pensare di imbottire i ragazzi nelle scuole con tutti i genocidi del Novecento, per cui se li devono imparare a memoria tutti, vedere tutti, dovranno fare un percorso, dovranno anche loro arrivare a delle sintesi, dovranno saper scegliere, cioè capire gli strumenti per scegliere all'interno di questo mare magnum della memoria nuova che il Novecento ci ha consegnato e che il nuovo millennio sta amplificando in maniera inaudita, e dovranno, come dire, imparare soprattutto a navigare più che conservare tutto quello che c'è. Sì, un fatto curioso, perché diciamo ci incrociamo anche all'interno di qualche struttura dove si cercano immagini o si usufruiscono delle immagini che tu hai trovato, e che poi in realtà la scoperta anche da parte dei grandi network che questa memoria visiva fosse meritevole di essere catalogata e conservata è abbastanza recente, perché in realtà irrompe l'immagine, la ripresa dell'immagine, soprattutto dopo la guerra, anche a livello di attualità, e nessuno pensa che questo materiale possa essere trattato con la stessa dignità con cui nelle biblioteche si trattavano i libri. Si tratta di documenti storici, ma il discorso di Papa Giovanni, in quella notte di luna a Roma, quando diede un bacio da portare ai bambini, sarebbe comunque un bellissimo discorso se ci fosse rimasto il testo scritto, meraviglioso. Ma il fatto che ci sia rimasto il filmato di quella notte, che era, come dire, piena di spiritualità non solo a Roma, ma una spiritualità che si è trasmessa ovunque attraverso le parole e le immagini, lo rende, come dire, assolutamente indelebile dalla nostra memoria, come se fosse cronaca di oggi. Ogni volta che quel discorso va in onda, la gente resta incollata al televisore. Possono passare 20 anni, 30 anni, 40 anni, ne passeranno 100, ma io scommetto qua ora che tra 100 anni la gente resterà sempre incollata al televisore. E questa è la forza anche che ha questo nuovo modo, nuovissimo, inedito, perché lo stiamo imparando a gestirlo un po' alla fine del Novecento, per il resto abbiamo cavalcato di gran corsa senza neanche pensarci, che abbiamo di conservare la memoria attraverso la documentazione audiovisiva. Sono documenti che bisogna saper analizzare, esattamente come prima si analizzavano i documenti della diplomazia, del Ministero degli Esteri, gli atti di governo, gli atti parlamentari, che erano fondamentalmente testi scritti, ma insomma lo storico ci passava sopra giorni e giorni per studiare un testo, anche per capire se era un falso, perché attenzione, negli archivi audiovisivi si trovano anche numerosi falsi e la propaganda ha costruito di tutto, specialmente nei regimi dittatoriali. Stavo pensando, l'avevamo detto prima di iniziare la trasmissione, che questa fase della nostra discussione era condotta su una regola di cinema che dice: la gente interessa la gente. È così, è una frase che a me ha colpito sempre molto. È un po' la regola base della produzione hollywoodiana e quindi della produzione cinematografica in generale, poi si applica a tutti i media, si applica alla radio, si applica alla televisione, si applica anche ai giornali. E cioè, comunque, io vivo a casa mia con mia moglie, mio figlio, abbiamo dei problemi come tutti. Supponiamo che io possa avere un problema adesso col mutuo, perché siamo in piena crisi. Il mio grande interesse è vedere anche gli altri come si stanno comportando o come si sono comportati in passato rispetto a problemi come quelli che ho io. Nulla batte questo interesse. Sì, posso anche guardare dei fumetti, puoi anche darmi Superman altre volte, ma di fronte alla vita vera che tu mi riproponi e me la sai raccontare, beh, quello resta l'interesse maggiore. Ma stavo pensando anche, scendendo appunto la regola generale a delle applicazioni particolari, quanto questo sta cambiando nella memoria di una famiglia. Perché poi in realtà stavo pensando, aiutando mia madre che ha 93 anni a, diciamo, lasciare la casa dove siamo vissuti per andare a occupare due stanze da una mia sorella, vedevo così le sue foto di memoria, di famiglia, il padre e la madre, il giorno del matrimonio, del fidanzamento, le foto, oppure così le foto della sua memoria per rapporto a noi, no? Una foto della prima comunione fatta davanti allo stesso fotografo, nella stessa posa, per tutti e quattro i figli, con lo stesso fondale, eccetera. Poi invece adesso abbiamo la possibilità di avere qualcosa di più come memoria, cioè se prima era una discendenza che aveva bisogno di simboli e di miti, adesso la discendenza si ritrova. Adesso sì, c'è la possibilità di vedere, per molti ragazzi, di vedere i loro genitori che andavano in vacanza a fare il bagno al mare o che facevano il primo giorno di scuola, ripresi coi filmini Super 8, per esempio, a seconda dell'età del pubblico che di volta in volta ci segue. Questo cambia radicalmente la memoria. E io ricordo che forte impressione mi ha fatto la prima volta che ho visto le foto di mio padre giovane, giovanissimo, che non avevo mai visto. Mio padre è morto all'età di 99 anni, quindi ha vissuto veramente una vita lunghissima. E nel mio immaginario è sempre stato un uomo dal maturo all'anziano. Ecco. Vederlo ragazzo come me, beh, mi aveva colpito non poco. Se mi avessero dato il filmato di mio padre ragazzo, sarei rimasto scioccato. Scioccato in senso positivo, intendiamo. Cioè, i bambini oggi però nascono così. nascono con tutto questo patrimonio a disposizione. Ma hanno la fortuna di rivedere, tu dicevi giustamente, degli spezzoni della giovinezza, del momento in cui i loro genitori erano loro coetanei. Cioè, come cambia anche il discorso, che so, un sedicenne, anche con l'appoggio di un supporto multimediale dove si vede papà a 16 anni cosa faceva? Come parlava, come si vestiva. Io sono fiducioso. Io credo che questo tipo nuovo di memoria che abbiamo in realtà aiuti molto. Perché grande difficoltà nel come dire, accogliere i suggerimenti, gli insegnamenti, chiamiamoli come vogliamo, le indicazioni che arrivano dai genitori, è dovuto al gap generazionale, per cui lì si vive già direttamente, non come vecchi, ma insomma sicuramente come grandi, sicuramente non come facenti parte dell'ambiente giovanile. Il fatto di rivederli giovani, secondo me, aiuta. È una cosa che te li rende immediatamente più vicini. Cioè, loro mi dicono questo perché da giovani ci sono passati. Perché comunque sono stati giovani come me e hanno vissuto, che so, quel problema d'amore o quel problema scolastico o quella sconfitta che ho subito, fosse sia di calcio sia comunque nella vita di un ragazzo. In qualche modo è una memoria più dinamica, più capace di entrare all'interno del vissuto, di qualsiasi messaggio interpersonale tra padre e figlio, tra fratelli maggiori e fratelli minori. Ad un tempo è però anche molto difficile da gestire, perché come mi capita spesso di dire ai ragazzi quando vado nelle scuole, e soprattutto parlo ai ragazzi perché mi ascoltino gli insegnanti, e attenzione a non fare come quella famiglia di matti, però dove c'è uno che ha ripreso tutte le volte che in famiglia c'era qualcuno che aveva il mal di denti, che aveva l'influenza, che è morto un parente, per cui ai ragazzi proiettiamo solo i filmati delle disgrazie, perché non funziona così. Questi ragazzi dopo un po' saranno inorriditi dal materiale del repertorio. Roberto Olla, la nostra guida questa settimana, giornalista, scrittore e cacciatore di memorie. Il cielo in una frase, di Filippo Di Giacomo. E di Roberto Olla, giornalista Rai, scrittore e cercatore di immagini. Di Roberto abbiamo già ricordato perché e come e quando le sue opere gli hanno fatto vincere per i libri, per esempio, il premio Flaiano nel 2002, il premio internazionale di letteratura Il Molinello nel 2001, il premio Saint-Vincent nel 97, il premio Ilaria Alpi sempre nel 97. Roberto, però abbiamo parlato, diciamo così, di questa possibilità nuova, di questa svolta antropologica che a ciascuno di noi è stata data e che consiste nel poter riempire la nostra memoria di immagini, di voci, e così situando fatti che magari riguardano la nostra memoria familiare dentro contesti precisi. Però qualcuno ha scritto che beato chi ha occhi per vedere e orecchie per sentire, perché le immagini sembrano essere facilmente leggibili quando magari ci raccontano storie del passato, forse perché non ci coinvolgono in una verifica così un po' attenta. Invece quando riguardano il presente, e senza naturalmente giudicare le buone intenzioni di qualcuno, ma avevamo parlato queste settimane di giorni della memoria di varie cose che attengono non solo agli ebrei ma anche a Israele. Qualche ascoltatore ci ha scritto: sì, però i razzi Qassam non fanno male perché non hanno esplosivo dentro, mentre le bombe israeliane sì, però lì però ci sono più di 1000 morti, lì solamente uno. Ma in fondo le immagini dell'attualità non possono essere, diciamo così, catalogate con quello che dicono i giornali. O faccio ancora una riflessione, poi ti lascio la parola. Noi abbiamo ricostruito, anche grazie all'opera di persone come te, di storici per esempio, anche l'archivio fotografico dei grandi genocidi del secolo scorso, da quello degli ebrei ma anche a quello degli armeni, qui abbiamo le foto, o addirittura penso a tutto il materiale che è uscito dopo la caduta dell'Unione Sovietica sui gulag. Certo. Poi è capitato in Ruanda e nonostante che le immagini ci stessero raccontando un genocidio in corso, siamo rimasti fermi. Cos'è? C'è una legge crudele all'interno del mondo delle immagini? No, è che giustamente ci vogliono occhi per vedere, orecchie per sentire. E questi occhi e queste orecchie devono essere educati, dobbiamo, come dire, allenarli, dobbiamo istruirli, dobbiamo dargli delle indicazioni, dei mezzi di analisi, altrimenti possiamo anche avere gli occhi aperti ed essere ciechi e non vedere la realtà che ci circonda. I discorsi sono tanti. Per quel che riguarda i genocidi del passato, proprio perché sono collocati nel passato, in un certo senso tutto l'orrore che vediamo nell'immagine è storicizzato, è collocato lontano. Sì, ci fa orrore, ma come dire, è passato un secolo, sono passati 60 anni. E in qualche modo questo passato un po' si erge come barriera, ci difende. Analizzare, le immagini dei genocidi in corso, per cui dal Darfur ci può arrivare qualsiasi immagine e praticamente non ci smuovi. Io non vedo grandi mobilitazioni per il Darfur, non ne vedo neanche per i monaci tibetani, non ne vedo per i cristiani perseguitati e che hanno perso la vita in tanti paesi. Poi all'improvviso si creano invece ondate di mobilitazione su altri tipi di temi e altre immagini che arrivano da altri paesi. Questo secondo me è perché non c'è una capacità reale di analizzarle quelle immagini. Dire che dei missili non hanno carica esplosiva, quindi non fanno male, o fare anche la contabilità dei morti, 10, 1000, 1, 100, ma perché una vita umana forse non ha valore, una casa dove vive una famiglia, dove piovono dei missili giorno e notte, deve, come dire, vedere la propria tranquillità, la propria felicità, la propria vita sconvolta ogni giorno e poi ci si aspetta che non ci sia reazione, che questo non scateni un conflitto. Purtroppo sparare dei missili è un buon sistema per scatenare una guerra. Sparali per tanti giorni e alla fine, per qualche motivo, vedi che questa guerra scoppia, si scatena. Il riconoscimento attraverso le immagini di un crimine contro l'umanità o contro un singolo uomo è ancora oggi un'operazione estremamente difficile. Guardiamo solo che cosa è successo col genocidio. Noi abbiamo visto le immagini, lo dicevi prima, del genocidio degli armeni. Abbiamo visto la Shoah e quello che è successo nei campi di concentramento. Non abbiamo saputo riconoscere il genocidio in Cambogia. Ancora oggi ci sono i processi aperti contro il responsabile di quel genocidio. Non abbiamo avuto i mezzi non li abbiamo voluti trovare con tutti i soldi che si sprecano nel mondo per fermare il genocidio in Darfur. E facciamo poco e niente, più niente, abbiamo fatto, scusate, poco e niente in Ruanda. Attorno alla stessa parola genocidio, nelle Nazioni Unite si sono svolte battaglie furibonde sul piano diplomatico, perché per esempio la ex Unione Sovietica assolutamente non accettava che si usasse il termine genocidio per quel che era avvenuto nei Gulag e c'è riuscita anche, è riuscita a far derubricare quel tipo di, chiamiamolo omicidio di massa, dalla classificazione di genocidio. E a questo punto anche al povero telespettatore a cui arrivano le immagini a casa, con quali strumenti le analizza? Con i titoloni dei giornali. In base a quali giornali legge, in base ai titoli anche dei telegiornali, lui analizzerà le immagini. Immagini che sono invece di difficilissima analisi. Sono stato un po' lungo, No, no, ma forse. volevo, diciamo così, passare sempre a un'applicazione di tipo pratico, perché non è un discorso che riguarda semplicemente i giornalisti, perché vorrei far notare ai nostri ascoltatori che in casa hanno dei produttori documenti, perché se si va su Facebook è facile vedere 13-14enni che si scambiano foto e magari ci sono bambine in fiore al mare o colte, che so, mentre sono in palestra a fare danza o cose di quel genere. Cioè, in casa ci sono dei produttori di immagine e queste immagini vengono scambiate all'interno di questo mondo dove appunto la storia si racconta anche con voci, con suoni e con. Abbiamo un minuto di tempo per dare una pista ai nostri ascoltatori, nel caso fossero in da dove si parte per non cadere nella regola che ci vuole che il pubblico sia sanguinario al cinema o quando ha di fronte alle immagini? Dove si deve partire per un'educazione, un uso? Beh, noi dobbiamo conoscere sempre bene la fonte di questa immagine, cioè dobbiamo sapere chi l'ha fatta, chi ha girato quel filmato, quando, in che giorno, altrimenti un'immagine è manipolabile. Se noi non è, purtroppo è il grande problema, il grande difetto delle immagini, se non vogliamo che diventino una sorta di, per esempio, di pornografia storica, perché c'è anche chi purtroppo ha lavorato buttando orrore su orrore in televisione, perché così soddisfaceva il gusto sanguinario del pubblico, è un'operazione assolutamente terribile. Noi dobbiamo, imparando a trattare un documento, avere la carta d'identità di quel documento, sempre accertarcene, quindi chi ha girato, in che giorno ha girato, dove era, dichiarazioni se possibile firmate, giurate, chiamiamole come vogliamo, attendibili però, e da lì partire per l'analisi di ogni documento. Non abbiamo più il tempo, ma sulla vicenda delle Torri Gemelle e della caduta delle Torri Gemelle c'è un'intera letteratura, si potrebbe fare, su tutti i filmati che sono stati fatti, anche amatoriali, attorno alle Torri Gemelle, compreso quello che c'era a un certo punto una colata di metallo e veniva dato per acciaio che si fondeva, in base al colore di questo metallo che scendeva da una delle finestre delle torri. Il colore cambia a seconda della telecamera che tu hai adoperato e se hai fatto o hai battuto o non battuto il bianco, come si suol dire, per fare la temperatura colore. Quindi tu in realtà, se non sai come è stata fatta questa operazione, non puoi dire che quindi colore è quello. Ai nostri ascoltatori, diciamo, se avete in casa dei piccoli produttori d'immagine, a posto di fare le prediche, aprite gli occhi e soprattutto siate sempre consci di quando, dove e come quelle immagini sono state girate prima che vengano messe in rete. Forse è un piccolo punto di partenza. Grazie Roberto. Grazie a te. Grazie a Valerio Rocchetti, grazie a Riccardo Silvi, grazie a voi e a risentirci la settimana prossima.